cos'è quest'estate di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno ai nostri radioascoltatori. Ci alterneremo io e Deborah Rosciani in questa avventura estiva, appunto un programma in diretta dalle 8:15 di mattina fino alle 10 per accompagnarvi tra il serio e il faceto in quest'estate. E ricordiamo quindi che Deborah sarà con voi dal 22 agosto. Oggi ci occuperemo di quello che è successo durante il weekend, il dialogo interreligioso, ma anche i cristiani nel mondo, tra l'aiuto ai più poveri e anche alle persecuzioni. Quindi faremo il punto dopo le giornate della gioventù in Polonia di Papa Bergoglio. E allora, i nostri ospiti a tra pochissimo. In Francia torna il terrore jihadista, assaltato una chiesa vicino a Rouen, sgozzato l'anziano sacerdote, un'altra persona in fin di vita. Uccisi i due killer, erano francesi, inneggiavano all'ISIS che rivendica l'attacco, uno già noto alla polizia aveva cercato di andare in Siria. L'hanno ucciso mentre stava celebrando la messa, l'hanno ucciso tagliandogli la gola con un coltello. Così è morto stamattina padre Jacques Hamel, 86 anni, nella chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray, vicino a Rouen, in Normandia. L'omicidio sacrilego è avvenuto ad opera di due uomini che sono entrati alle 9:50 nella chiesa dalla porta posteriore gridando Allah Akbar, Allah è grande. E queste erano le terribili notizie della scorsa settimana, mentre questo weekend è avvenuto qualcosa di nuovo. Ne parliamo con padre Bernardo Cervellera, direttore di Asia News del Pontificio Istituto delle Missioni Estere. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con Monsignor Mario Toso, segretario del Pontificio Giustizia e Pace. Allora, padre Cervellera, gli islamici, i musulmani sono andati a pregare nelle chiese cristiane, c'è un'apertura, un dialogo interreligioso molto importante. Beh, molto importante, devo dire, molto importante perché è avvenuto in questa situazione di tensione in cui si crea un po' di paura e si creano un po' di sospetti, ma comunque che i musulmani visitino le chiese e che ci siano contatti tra cristiani e musulmani, cioè questa è una cosa da tempo, non soltanto nei paesi diciamo come il Medio Oriente, dove appunto si cerca di vivere una fraternità, ma anche in Francia, devo dire, cioè nella stessa Saint-Étienne-du-Rouvray, dove è avvenuto l'assassinio di padre Jacques Hamel, la comunità cristiana di Lyon aveva ottimi rapporti con i musulmani, con i musulmani del paese. Cioè, il punto è che, è come fare per isolare e per fermare questa fondamentalizzazione, diciamola così, questo slancio islamista violento da parte dei giovani. Ecco, Monsignor Mario Toso, segretario del Pontificio Istituto Giustizia e Pace, il Papa ha detto non è giusto identificare l'Islam con il terrorismo e la violenza è ovunque, anche tra i cattolici, e soprattutto anche detto appunto che c'è la violenza nel femminicidio, no? Ci sono dei cattolici che poi uccidono le proprie mogli, quindi la violenza è ovunque. Lei condivide questa tesi oppure è in atto una guerra anche religiosa? Dobbiamo dire che la violenza c'è purtroppo tra tutti credenti di una fede o di un'altra, e questo lo dicono i fatti, non c'è bisogno di teorizzare in maniera ideologica. E evidentemente la violenza fa parte un po' del bagaglio umano, della natura umana e della tendenza anche a difendersi, ad aggredire a seconda delle situazioni. L'importante è che la violenza che si manifesta in questa e in quella religione sia realmente ridimensionata, sia eliminata, perché evidentemente non fa parte di quella che è diremo la natura, l'identità fondamentale del credente. Noi sappiamo che i credenti, ecco, nel loro rapporto con Dio sono invitati alla misericordia, sono invitati all'accoglienza, al dono reciproco, al rispetto della religione altrui. Anche a questo insegna questa e quella religione. Ecco, l'importante è che tutte le religioni che hanno avuto nella storia anche dei momenti di fanatismo, di fondamentalismo, siano coscienti che questo non fa parte della stessa religione, è piuttosto una caricatura della religione e del rapporto dell'uomo con Dio. Noi sappiamo che proprio per la violenza molti cristiani, ma non solo molti cristiani, anche musulmani sono uccisi, e quindi non c'è solo una cristianofobia, ci può essere anche un'islamofobia. E questo evidentemente è deteriore, è negativo, non può essere, diremmo, considerato come identitario dal punto di vista religioso, perché come ha detto bene il Papa, la religione non è guerra fondaia. Ecco, poi vediamo anche le notizie che vengono e ci confermerà anche padre Bernardo Cervellera da Kabul, dove sono morti 3 attentatori, c'è stato anche lì un attentato talebano. Io intanto vi ricordo il numero verde 800240024 e il numero degli sms 349-238-6666. Padre Bernardo Cervellera, le notizie di oggi, appunto, c'è questo attentato a Kabul, ma non rischiamo invece di essere troppo buonisti e di ragionare con una chiesa che ha avuto anche, no, nel suo passato storico, parlo di 400 anni fa, di 500 anni fa, quando magari si bruciava Giordano Bruno, ha avuto questo momento storico, e invece oggi è una chiesa completamente diversa che aiuta i poveri e ragiona quindi con dei criteri che forse non sono quelli che ci sono in alcuni paesi colpiti dalla guerra come nel mondo musulmano. Sugli errori storici della Chiesa, insomma, ci sono stati tantissime revisioni. Giovanni Paolo II al Giubileo del 2000 ha fatto la richiesta di perdono per 7 gravi peccati che sono stati compiuti durante la storia della Chiesa, proprio come segno di un rinnovamento. Certo è che quello che, insomma, adesso è importante e come fare per convivere tra tante religioni, tra tante comunità ed etnie, e anche, diciamo così, come fare per far vivere insieme anche persone che non hanno alcuna religione. Perché il problema grosso, per esempio, che i musulmani hanno è come fare per assorbire il mondo moderno, il mondo ateo, il mondo che non ha alcun riferimento a Dio. Lei prima citava poi il caso dell'Afghanistan. Oggi, appunto, stanotte i talebani hanno attaccato un hotel, hanno attaccato un compound dove c'erano stranieri e così via. Lì sembra proprio che ci sia, diciamo così, più che cercare di colpire dei dominatori, dei colonizzatori stranieri che sono in Afghanistan, così come li definiscono loro, c'è proprio il tentativo di una guerra tra chi? Tra sunniti talebani e altri sunniti che sono dello Stato Islamico per il dominio della regione. Lo Stato Islamico a sua volta combatte contro suoi correligionari sciiti. Una settimana fa c'è stato un attentato a una comunità all'Ara, che appunto sono sciiti, uccidendo decine e decine e decine di persone, ferendone centinaia. Cioè, da una parte, appunto, io penso che la Chiesa abbia superato il tentativo di affermare la sua fede o la sua vita o il modo di vivere all'interno della società con la violenza. Cioè, secondo me il Concilio Vaticano II ha dato un taglio netto a tutto questo, forse anche prima è avvenuto in modo non formale. E il mondo islamico sta cercando di superare, appunto, questo conflitto con la modernità, con il mondo moderno, in qualche modo, ma è ancora per alcune frange preda proprio di interpretazioni di tipo violento. Queste interpretazioni di tipo violento hanno un'origine storica, che è il wahabismo, cioè l'Islam predicato e sostenuto dall'Arabia Saudita, dal Qatar, dal Kuwait, e quindi c'è bisogno di una revisione proprio del modo di insegnare, del modo di vedere la realtà. Tutto questo io sto dicendo non perché lo vorrei io soltanto, ma lo vogliono anche i musulmani. L'università di Al-Azhar, per esempio, ha chiesto diverse volte che venga cambiato il modo con cui si insegna l'Islam agli imam, perché appunto è attraverso gli imam poi che vengono fuori queste radicalizzazioni dell'Islam che affascinano i giovani. Direi anche c'è un'altra cosa. È un problema questo della radicalizzazione dei giovani che non tocca semplicemente le religioni, cioè non tocca semplicemente l'Islam o i cristiani perché appunto sono vittime o per il loro passato di crociata eccetera. È un problema che tocca anche l'educazione che viene data nei nostri paesi, l'educazione laica che viene data nei nostri paesi europei, cioè è un fatto che questi giovani che hanno ucciso il sacerdote oppure che mettono le bombe o che fanno gli attacchi a Bruxelles o a Parigi eccetera eccetera, cioè sono francesi, sono belgi, cioè sono persone che hanno vissuto dentro la nostra cultura e che però probabilmente non hanno trovato motivi per vivere, non hanno trovato senso per vivere e hanno preferito a un certo punto scegliere questo modo teatrale e sanguinario di farla finita. Monsignor Mario Toso, c'è un ascoltatore che però ci dice: esistono i violenti ovunque, ma non ho mai sentito di un femminicidio che usa un camion su una passeggiata a mare. Attenzione a voler sempre trovare giustificazioni o a creare paragoni che non stanno in piedi, lo dice Massimo da Pescara. Ecco, le giro brevemente la questione. Non è che siamo troppo buonisti, questo è un po' il senso del messaggio di Massimo? Ma è evidente che noi non dobbiamo essere buonisti e anche se dobbiamo essere misericordiosi, la misericordia non significa essere buonisti, la misericordia significa che noi dobbiamo rispettare l'altro, dobbiamo volere il bene dell'altro, ma questo sulla base di una giustizia, cioè la misericordia non nega che bisogna mettere in pratica la giustizia, il problema è, a mio modo di vedere, di intendere la propria religione nella maniera giusta. Di questo parlava anche Benedetto XVI. Le varie religioni, compreso il cristianesimo, devono subire un processo di purificazione, andando, diremo, alla loro autenticità, non costruendoci una religione a nostra misura e diremo a nostro consumo. Noi dobbiamo, come dire, progredire nell'impegno di conoscere realmente quello che è il reale rapporto che noi abbiamo con Dio. Riguardo di questo è fondamentale il fatto che nel rapporto con le altre religioni, siano esse o no rivelate, ecco, da Dio o da qualcun altro, noi riusciamo a conoscerci sempre di più, sempre meglio, perché solo sulla base della conoscenza reciproca noi riusciamo a rispettare l'altro e a conoscere anche la religione dell'altro, le esigenze della religione altrui. Allora noi diamo sì, mi dica, perché siamo proprio in chiusura. Come? Mi dica, perché siamo proprio in chiusura. La trattengo un attimo, diamo la linea alla regia e ci risentiamo subito dopo. Ma cos'è quest'estate? Buongiorno, allora ritorniamo al tema di questa puntata, il dialogo interreligioso, quello che è accaduto durante il weekend, la chiusura della giornata mondiale della gioventù. Stavamo parlando con Monsignor Mario Toso e lo provoco ancora con un radioascoltatore, Ulisse, che ci scrive: vogliamo la religione islamica separata dalla politica. Ecco, Monsignor Mario Toso, forse questo è il problema, che c'è ancora confusione nell'Islam su questa separazione Stato e religione. Dunque bisogna dire che c'è sempre in ogni religione il tentativo, proprio perché la religione è totalizzante, cioè coinvolge tutte le dimensioni dell'esistenza umana, compresa quella politica, di diventare totalitaria. Ora, questo aspetto nella religione cristiana è stato superato da tempo, e al punto che si riconosce la libertà di religione per tutti, anche diremo i non credenti. E questo per dire che in sostanza chi crede in Gesù Cristo, ecco, non nega la possibilità che altri regolamentino o ordinino il loro rapporto con Dio in maniera diversa da come lo fa un cristiano. Occorre anche tenere presente che a livello di organizzazione della società civile e politica non è in primo luogo il diritto alla libertà religiosa. Ciò che ha il primato su tutto è la persona con la sua libertà di scelta che deve essere responsabile, e questo anche nei confronti di Dio. Pertanto, allorché ci si trova in una società politica, non si può immaginare che se vi è una libertà di scelta per tutti, ecco, vi sia qualcuno che voglia imporre la propria religione agli altri. Ecco, nella società pluralistica che noi viviamo, la libertà religiosa deve essere una libertà riconosciuta a tutti e non deve essere però una libertà che supera il diritto alla vita. Perché c'è qualcuno che intende che il proprio rapporto religioso sia un qualcosa di così superiore al punto da poter eliminare l'esistenza degli altri. No, nella società pluralista secolare il diritto alla libertà religiosa è un diritto che rispetta l'esistenza degli altri. Tant'è che se noi immaginiamo una società in cui tutte le persone sono eliminate, è inutile parlare della libertà religiosa, perché appunto la libertà religiosa si aggancia, si radica nelle persone singole. Grazie, allora grazie Monsignor Mario Toso per questa spiegazione, e noi diamo il benvenuto anche a Don Maurizio Verlezza, direttore di Don Bosco, la possiamo chiamare un prete di frontiera, insomma, una persona che chiaramente ha un ruolo che è quello poi della comunità interreligiosa sul territorio. Don Maurizio Verlezza, qual è la sua esperienza? Sì, intanto io sono un prete come tanti che vive in mezzo alla gente, e volevo intanto salutare il mio professore Don Mario Toso, Monsignor Mario Toso, che è stato mio professore all'Università Salesiana, anch'io sono un salesiano. Lavoriamo con i ragazzi chiaramente in un contesto di periferia, dove sono presenti in questo momento 44 nazionalità differenti. L'abbiamo chiamato un laboratorio di fraternità. Lei dove lavora? Qual è? A Sant'Pier d'Arena, Genova. Genova, sentite, è un quartiere periferico della città di Genova, in un istituto che ha una storia infinita, perché addirittura l'ha voluto Don Bosco come istituto che ha visto il lancio missionario dei nostri salesiani che sono in tante parti del mondo. È una periferia delle nostre città, delle nostre metropoli, che vede l'incontro di popoli. Dicevo, in questo momento abbiamo fatto una statistica, sono presenti 44 nazionalità nel nostro istituto, vuol dire tra la scuola, la formazione professionale, l'oratorio, il centro giovanile, la parrocchia. Abbiamo un incontro di popoli, e questo ci comporta per noi un laboratorio di fraternità, soprattutto col dialogo con le religioni differenti. Con l'Islam abbiamo la moschea a 50 metri da noi con cui siamo in dialogo, e si crea facciamo un tentativo di fraternità. Chiaramente sono percorsi di amicizia e di fraternità che ci vengono proprio dal nostro fondatore San Giovanni Bosco, che ci ha consegnato questo ideale evangelico incarnato nel mondo giovanile. Ecco, lei in questo contesto ha 44 nazionalità e praticamente due religioni, poi sostanzialmente. Sì, più, no? Di una, perché abbiamo gli ortodossi, nel senso, di più religioni. Comunque le più presenti sono chiaramente quella cattolica e quella islamica. Oppure cristiana, magari cristiana, sì, ortodossa, sì, e sì, islamica. Certo. Ecco, c'è questa difficoltà. Lei ha avuto anche un collega, un suo confratello che è stato poi ucciso in Turchia. Lei sente questa difficoltà molto spesso nel dialogo interreligioso tra cristiani e musulmani, e soprattutto sente una persecuzione dei cristiani nel mondo oggi? Sì, esiste, ma laddove non sono riusciti a costruire esperienze di amicizia, di fraternità, soprattutto quando si coltivano pregiudizi. Questo vale per ogni realtà. Quando l'altro non è un fratello con cui dialogare, ma addirittura un nemico da abbattere, questo però è un discorso trasversale per l'uomo, insomma, è proprio qui dietro c'è una antropologia che per noi è fondamentale. L'uomo per noi è fratello, ma questo vale per la religione cristiana, ma troviamo le radici anche nelle religioni islamiche, in tutte le grandi religioni. Quello che è importante è creare percorsi di amicizia, di fraternità, dove l'altro, e questa è quella che noi chiamiamo la fraternità del popolo, della gente, perché la vicinanza, l'attenzione, l'apertura del nostro oratorio, per esempio a tutti i ragazzi, senza discriminazioni, questo crea una fraternità bellissima, i ragazzi giocano insieme, vanno a scuola insieme, hanno addirittura l'esperienza di impegno lavorativo, perché poi noi abbiamo con la formazione professionale l'ingresso nel mondo del lavoro. Che bello vedere questi ragazzi molto riconoscenti di confronti all'opera di Don Bosco, perché questa è una casa che accoglie, al di là della cultura e della religione. Sei importante perché esisti, perché tu sei un uomo, hai una grande dignità e con te posso creare un dialogo, questa è la cosa più bella, ecco, un percorso di pace che è fatto di dialogo e di conoscenza delle differenze che vanno mantenute, guai a non mantenere differenze tra le religioni e le differenze, le identità anche culturali, perché questa è ricchezza di popolo ed è anche stimolo di fraternità. Quando ci puntiamo all'appiattimento, ad un percorso di integrazione, quasi di assimilazione all'altro, questo è pericolosissimo, sì. Questo vale per tutte le realtà. Lei che però come ci è rimasto quando ha saputo dell'assassinio di padre Jacques Hamel, che era un prete come lei di frontiera, che addirittura aiutava i musulmani in quel paese, a Rouen? Sì. Io ho sofferto in maniera terribile perché mi è venuto in memoria l'esperienza di un Andrea Santoro, questo sacerdote romano, che io sono di Roma, adesso sono da poco tempo qui a Genova, che ho conosciuto personalmente e con cui abbiamo condiviso alcune cose, alcuni tratti, e delle esperienze che lui ha fatto di donarsi al popolo turco, questa presenza piccolissima in questa parrocchia dove ha trovato la morte, e mi ha mandato in memoria questa sofferenza sua. Ma sappiamo che da quella sua sofferenza, da quel suo martirio, è nato un dialogo bellissimo che noi ancora contempliamo. Noi sappiamo che questo nostro fratello, sacerdote Don Andrea Santoro, ha creato un dialogo con le sue lettere, con i suoi scritti, perché era un uomo di pace. Quindi chiaramente deploriamo qualsiasi assassinio, siamo contrari con qualsiasi tipo di violenza, ma siamo convinti che anche questo seme che si è messo all'interno della terra francese sta portando dei frutti incredibili. Pensate ieri che è successo nelle chiese, io ho in mente quello che è successo a Roma, a Trastevere, a Santa Maria in Trastevere, perché conosco bene la comunità di Sant'Egidio e anche quella del Movimento dei Focolari, che insieme sono stati chiamati dall'imam di Centocelle, che io conosco personalmente perché io sono di Centocelle. Ecco, però per esempio sull'imam di Centocelle, la interrompo perché c'è stata la presidente delle comunità ebraiche romana, Ruth Dureghello, che ha detto che questi imam in realtà poi dà poi dei messaggi anche contrastanti, alle volte potrebbero essere anche violenti. Ecco, questo io non posso, dovrei vedere un po' cosa ha detto, cosa ha fatto direttamente. Io quello che sono storicamente convinto, è che il dialogo del popolo, questa cultura del dialogo, porterà la pace nel mondo e questo dobbiamo conquistare. Questi percorsi di amicizia che tante volte abbiamo fatto sia con la comunità di Sant'Egidio, comunità di Focolari, ma facciamo nel mondo salesiano tra i ragazzi, tra i giovani, questi percorsi di amicizia. Pensi che noi abbiamo dei giovani animatori di fede islamica che fanno gli animatori all'interno del nostro oratorio, ma questo succede anche in tante parti del mondo. Sono partiti, pensi, 15 giovani dall'Italia per andare a fare l'attività estiva missionaria in Egitto, in un paese totalmente musulmano chiaramente, e a servizio di una scuola nostra, scuola salesiana, che si trova al Cairo, per insegnare ai ragazzi l'italiano, perché lì si insegna l'italiano, una scuola che ha voluto il Ministero dell'Istruzione qui in Egitto, dove si cresce dal punto di vista culturale ma anche tecnico, perché è una scuola tecnica, e si porta avanti un'esperienza di promozione umana bellissima. È chiaro che questa esperienza di dialogo tra il mondo cattolico e il mondo islamico, con questi percorsi di amicizia che mette al centro il bene del ragazzo, del giovane, porta pace nel dialogo e nella fraternità tra le persone. E questi sono i percorsi belli che purtroppo non se ne parla, perché chiaramente è molto più drammatico l'esperienza che sentiamo di un atto terroristico, ma quella foresta che cresce silenziosa non fa molto eco nel mondo purtroppo, ma è tanti popoli e tante esperienze di amicizia che crescono umanamente e che portano la pace nel mondo. Ecco, questa è anche l'esperienza San Piandarina, cioè, silenziosa, e se volete non andiamo sui giornali, non parleremo. Però l'integrazione, insomma, avviene nelle periferie. Allora io assolutamente sì, questo è un pensiero che Papa Francesco ce lo continua a dire. A dire, sì. Nelle esperienze proprio della vicinanza, mettendo al centro il bisogno poi, perché chiaramente noi siamo accanto ai ragazzi che hanno più difficoltà, alle famiglie che hanno più problemi, quelle che vengono a prendere da mangiare da noi, i pacchi per i vestiti, e questa esperienza di prossimità ci permette di vivere il Vangelo, ma anche di essere misericordiosi, come tante volte il Corano dice nell'esperienza islamica. Per esempio, un'esperienza bella abbiamo fatto è nella moschea, abbiamo raccontato che cos'è la misericordia dal punto di vista cristiano e dal punto di vista della fede islamica. E questo incontro, anche culturale, dire ma qual è l'esperienza che viene fatta sulla misericordia, nell'anno della misericordia, sia dal punto di vista islamico che dal punto di vista cristiano, questo ci fa crescere nell'unione e nella fraternità. Allora, io intanto leggo qualche commento dei nostri radioascoltatori. C'è un radioascoltatore che invece la pensa completamente in modo opposto a lei. Quello che è accaduto ieri è vergognoso. Non invitati sono venuti nelle nostre chiese come invasori. Sono ateo, anche la mia famiglia, dice Silvano, perché i cattolici e gli islamici ci perseguitano. Vaticano, covo di ipocrisia. Vabbè, ovviamente ci sono anche queste. Vorrei anche la separazione vera, dice un altro radioascoltatore, fra cattolici e Stato italiano, che ancora non c'è. E noi diamo il benvenuto ad Alberto Negri, che è il nostro inviato, l'inviato del Sole 24 Ore, che ha viaggiato in tutto il mondo. E voglio chiederti, Alberto, c'è una persecuzione cristiana, c'è una recrudescenza del terrorismo islamico nei paesi anche del Medio Oriente, dove ci sono delle comunità, delle minoranze cristiane che vengono perseguitate, oppure anche gli yazidi, abbiamo visto anche minoranze che non sono cristiane ma sono di altre religioni? Ma guarda, senza fare troppe chiacchiere, perché quindi chiacchiere se ne fanno tante, ci sono delle cifre molto evidenti. Io ho assistito a tutti i conflitti degli ultimi 35 anni, per esempio in Iraq, alla vigilia della guerra del 2003 i cristiani erano 1.200.000, oggi sono meno di 200.000 e hanno praticamente abbandonato quasi tutti il loro luogo di residenza e si sono rifugiati a nord nel Kurdistan di Massoud Barzani. Lo stesso fenomeno si può dire c'è stato anche in Siria, sia pure in maniera un pochino più contenuta. Molti dei cristiani sono tra i 4-5 milioni di profughi siriani e sono stati distrutti interi villaggi cristiani dai combattenti islamici, non dell'ISIS ma di quelli di Al-Nusra legati ad Al-Qaeda, che adesso vengono riciclati come jihadisti buoni. I villaggi cristiani di Malula è stato liberato dagli sbollasciti, non dalle truppe di Assad. Certo che c'è una persecuzione, c'è in realtà una sorta di pulizia etnica e religiosa che è seguita dai conflitti civili tremendi che sono diventati anche delle guerre, soprattutto delle guerre per procura. Ecco, Alberto, questo quindi è un po' il quadro. Che impressione hai di quello che è accaduto ieri nelle chiese italiane, nelle chiese d'Europa? Questa piccola minoranza, perché ricordiamo non è che hanno aderito tutti, hanno aderito 23.000 musulmani su 1.500.000 in Italia, no? Però sono andati nelle chiese, hanno pregato insieme. È un inizio, cioè alla fine questo assassinio purtroppo di padre Jacques Hamel è stato poi una sorta di boomerang anche, no? E comunque ha aperto una strada verso un dialogo interreligioso? Guarda, tutto ciò che appartiene al dialogo e a, in qualche modo a sentimenti di condivisione, di comunanza, è positivo, questo è evidente, no? Sottolinei anche tu che si tratta di minoranze. Mi domando quanti cristiani siano mai stati in una moschea, per esempio, o invitati dentro una moschea, credo nessuno o ben pochi, o soltanto quelli che come me per mestiere lo hanno fatto quotidianamente quasi per tanti e tanti decenni. Quindi c'è ancora molto da capire, da comprendersi. Attenzione però, attenzione, perché c'è un po' un velo di ipocrisia in tutto questo, no? Come tu sottolineavi molto bene prima, ci sono imam ancora molto ambigui che da una parte danno solidarietà ma dall'altra parte fanno prediche di un certo tipo. Qual è il pericolo? Il pericolo non è solo il terrorismo, che naturalmente è quello che in questo momento ci preoccupa di più, ma il fatto che le comunità islamiche possano vivere in maniera giustapposta al resto della società, cioè creando le loro comunità musulmane in maniera staccata dal resto della società. Ed è quello che è avvenuto in parte, insomma, del continente europeo. Ecco, sottolineavi anche tu, noi vogliamo leggere il giornale, che ovviamente con le dovute molle, sappiamo che è un giornale di destra, però dice: ammessa l'1,5% degli islamici e già pretendono le offerte in chiesa 23.000 fedeli, le associazioni dateci l'8 per 1000, perché ricordiamo che ancora non c'è la possibilità per i musulmani di dare l'8 per 1000 che noi diamo alla Chiesa Cattolica, oppure che i valdesi danno ai valdesi, che gli ebrei danno alla comunità ebraica. Insomma, questa possibilità ancora non c'è, e secondo il giornale invece questa mossa è anche una mossa per ottenere questo. Abbiamo in linea con noi anche Marta Petrosillo, portavoce della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, e fa parte del Comitato Internazionale sul Rapporto sulla Libertà Religiosa, autrice di Perseguiteranno anche voi. Insomma, questo libro parla della persecuzione dei cristiani. Tu, Marta, ci confermi che i cristiani sono perseguitati nel mondo? Sì, sono perseguitati e sono anche il gruppo maggiormente perseguitato, in particolare perché minoranza in molti paesi in cui vi sono gravissime limitazioni e violazioni della libertà religiosa. E c'è anche da sottolineare che in molti casi i cristiani, come ad esempio prima il dottor Negri faceva riferimento all'Iraq e alla Siria, subiscono persecuzione a causa dell'Occidente, proprio perché, nonostante abitino quelle terre sin dai primi secoli, vengono identificati con l'Occidente invasore. Quindi dall'11 settembre in poi abbiamo avuto un'escalation di odio antioccidentale che si riversa sui cristiani in loco, che ovviamente sono il primo e il più semplice capro espiatorio. Ecco, mi chiedevano, sono assenti i commenti della comunità ebraica, in realtà no, l'abbiamo già detto, e diciamo che anche ci sono stati dei commenti riguardo all'assassinio di padre Hamal, proprio sul fatto di chiamare il terrorismo islamico con il suo nome. Questo è un po' quello che dice la comunità ebraica, ce lo chiedeva un radioascoltatore in un sms. Allora, Alberto Negri, come se ne esce? Perché il problema oggi è che l'Occidente si sente assediato da una minoranza, questa è la realtà, no? Generalmente nella storia dell'Occidente la minoranza era stata contenuta in dei ghetti, se vogliamo parlare della minoranza ebraica. Adesso noi abbiamo dei ghetti economici, perché insomma Molenbeek oppure le periferie parigine potrebbero somigliare a questo, e da qui il messaggio del Papa: esiste una guerra, ma è una guerra economica. Però poi una minoranza fa sì che la maggioranza sia sotto scacco. Allora, tanto per cominciare vorrei dare un supplemento di informazione. Prima si parlava di padre Santoro della chiesa di Trebisonda. Padre Santoro fu incozzato a Trebisonda 10 anni fa. Quella chiesa è stata assaltata qualche giorno fa, io ero in Turchia, e praticamente ignorato questo assalto, perché fortunatamente non c'era dentro nessuno, ma insomma quando c'è destabilizzazione nel mondo musulmano è evidente che si purtroppo verificano episodi di questo genere. Come uscirne? Innanzitutto uscirne identificando il fenomeno. Il fenomeno non è soltanto una guerra tra Islam e Occidente, prima di tutto una guerra dentro l'Islam. Ed è questo. Tra sciiti e sunniti? Non solo tra sciiti e sunniti, perché questa guerra è cominciata nell'80 con un conflitto, quando Saddam Hussein attaccò l'Iran, 1 milione di morti, e questa guerra è continuata ancora fino alla Siria, eccetera, ma all'interno dello stesso mondo sunnita, sull'interpretazione. La chiave di tutto è l'interpretazione. L'interpretazione del Corano. I fondamentalisti, i salafiti, eccetera, sono per una versione, come dire, ortodossa assoluta del Corano, incoraggiata dai finanziamenti dei sauditi, del Qatar, di questi paesi, no? L'interpretazione, parlavo tanti anni fa con Abdelkarim Soroush, un grande epistemologo musulmano, che mi diceva: vedi Alberto, questo è il problema, se noi potremo in qualche modo interpretare il Corano, in qualche modo anche il Corano diventerà contemporaneo, altrimenti si fermerà in quell'epoca del VII secolo, che è poi quella a cui fanno riferimento le frange più ortodosse. Non solo, Il problema sono le avanguardie ortodosse. Una del 5-10% in qualche modo condiziona molto spesso anche il comportamento del resto della maggioranza. Questo è avvenuto in Tunisia, in Egitto, in Algeria durante gli anni 80-90 ed è avvenuto anche nelle nostre periferie europee. Come uscirne? Io ho un'idea molto precisa, sono molto scettico per esempio sulla questione delle associazioni musulmane. Qui si deve trattare con gli stati, con i governi, devono essere loro a fare le moschee, a finanziarle eventualmente, ma anche a controllarle. E quando si negozia con i governi ci sono dei trattati, ci sono delle regole da rispettare, altrimenti sarà molto difficile uscirne. Quindi tu non pensi che per esempio far fare le prediche in italiano, perché il problema anche secondo me è che noi conosciamo pochissimo il Corano, no? E nessuno poi perde tempo a leggere la Bibbia, i Vangeli, figuriamoci il Corano, no? E la cosa fondamentale, non pensi che per esempio le prediche in italiano per controllarle, per controllare gli imam, abbiamo visto che è stato poi espulso un imam, no? Nei giorni scorsi in Italia, possa essere una possibilità che c'è per evitare o per arginare il terrorismo islamico nei nostri paesi? Sono misure transitorie che peraltro sono state applicate anche per esempio in Marocco, tanto per farti un esempio, gli imam prima di fare la loro omelia in moschea devono passare dalla polizia, presentare il loro discorso e che se non è in linea con quello che dice il governo, insomma, viene censurato, addirittura gli imam vengono arrestati. Io non sono addirittura per questo. Avviene per esempio con il Dianet, con il Ministero degli Affari Religiosi turco, che controlla gli imam turchi che stanno in Germania, per esempio. Ci fu l'episodio qualche anno fa di uno di questi che fu preso e portato via dal governo turco perché appunto fomentava situazioni, come dire, di contrapposizione anche violenta tra le comunità. Sono misure che possono essere prese, che devono essere prese, ma io ripeto, secondo me bisogna trattare quei governi. Io non si può pensare, per esempio, di moschee che vengono finanziati da paesi musulmani come l'Arabia Saudita, come il Qatar, che in qualche modo finanziano e sostengono una versione molto ultraconservatrice dell'Islam che difficilmente porta all'integrazione e alla convivenza, ma piuttosto alla giusta posizione. Io uso questa parola perché, guardate, non crediate, anche nei paesi musulmani per lungo tempo si è trattato non di una convivenza, ma di una tolleranza che derivava dal fatto che le autocrazie in qualche modo usavano le varie minoranze le une contro le altre. Questo non è convivenza o tolleranza, è apparenza di convivenza o tolleranza. Ci vuole una reale convivenza che sia quella che in qualche modo, signori, qui non si sfugge, osservi le leggi dello Stato in cui si vive. Marta Petrosillo, abbiamo sentito questa interpretazione di Alberto Negri, poi ci sono anche le polemiche sull'Occidente che vende le armi, no, a certi paesi. Allora, la situazione soprattutto nel mondo musulmano, no, nei paesi musulmani, è di grande paura delle comunità cristiane, no? In Libano i cristiani si stanno sempre più assottigliando, oppure abbiamo per esempio tutti gli ebrei sono fuori dai paesi arabi ad eccezione del Marocco. Ecco, qual è la situazione, Marta? La situazione è una situazione veramente grave e vi sono alcune comunità che rischiano, cristiane intendo, che rischiano addirittura di scomparire. Forse la nostra mancanza intesa come Occidente è quella di sorprenderci e giustamente denunciare fatti come quello avvenuto in Normandia, ma quante chiese sono state attaccate e vengono tuttora attaccate in Medio Oriente piuttosto che in Africa, in Nigeria, in modo particolare. Quindi sicuramente ciò che dobbiamo fare innanzitutto è aumentare una consapevolezza, conoscere quello che succede ai cristiani nel mondo, prima ancora di preoccuparci esclusivamente degli episodi che avvengono nella nostra Europa o nel nostro mondo occidentale. E ben vengano manifestazioni di solidarietà dalla comunità musulmana. Mi viene da dire che gesti come quello di ieri sono anche dovuti per e forse anche, e anche un po' tardivi. Per quanto riguarda la situazione in Occidente, nello specifico, sono sostanzialmente d'accordo, potrebbe essere anche utile tenere le prediche in italiano, ma non credo che ciò ovvierebbe al problema, si troverebbero comunque altri modi nei casi in cui si voglia, certo, per diffondere questo tipo di idee, sia via web che certo, attraverso altre vie. Lei parlava prima dell'imam di Centocelle, sì, non so se questo sia il caso, però sicuramente vi sono molti imam che nella lingua del paese in cui si trovano predicano l'accoglienza. La ringrazio, devo chiudere e noi ci sentiamo tra poco e ringrazio i miei ospiti. La linea alla regia. Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, braccioli, salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, ma c'è solo un piccolo problema, non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma, ma di che parla? Ah sì, è vero, c'è ragione Filippo, aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto e noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. Dal 1 agosto Umberto Alezio e Filippo Roma saranno i Fuori Posto. Dal lunedì al venerdì alle 10 su Radio 24. Oh, aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Ma cos'è quest'estate? Ricordiamo la splendida Giuni Russo che ci accompagna per quest'estate. Cambiamo decisamente argomento. Noi parliamo adesso di saldi estivi e potete intervenire in diretta all'800 24 00 24 per raccontarci le vostre esperienze oppure mandarci un sms al 349-238-6666. Il biennio terribile dei saldi estivi, gli incassi crollano del 20%, almeno questo secondo le ultime statistiche, ma anche per il Codacons i saldi sono ridicoli perché la percentuale del meno 20% o del 30-35%, insomma, non è così. Se c'è scritto meno 20%, magari la percentuale è più alta, ma insomma ci illustrano tutto. Massimo Torti della Confcommercio, Camera della Moda, e Marco Donzelli, presidente del Codacons. Allora, Massimo Torti, come stanno andando questi saldi che si chiudono tra due settimane? Una precisazione, sono di Federazione Moda Italia, Confcommercio. Sì. Bene, per quanto riguarda i saldi possiamo dire che abbiamo una media del meno 1,3%. Questo è il dato ultimo del monitoraggio che abbiamo, che si è ancora in corso, ma il dato è di venerdì e quindi diciamo che è un dato medio. Quando si parla di meno 20, meno 35%, come ben detto ad inizio trasmissione, non può essere una media, perché altrimenti vorrebbe dire una media con qualcuno che ha avuto una gran parte, che ha avuto un meno 50, meno 60% e qualcuno che ha avuto zero stabilità. Quindi una media ponderata è quella che facciamo noi attraverso un monitoraggio di questionari che ci arrivano dalle aziende che chiudono le loro le loro casse e ci danno questo dato sul raffronto con lo stesso periodo dell'anno scorso. Quindi stiamo parlando di un meno 1,3%. Il problema è stata la stagione, che la stagione stagione primavera-estate non è mai decollata, e qui abbiamo dei dati molto negativi, come certifica anche l'osservatorio acquisti Cartasì, quello che praticamente controlla e monitora tutte le carte di credito, le strisciate delle carte di credito degli italiani nei nostri negozi, e infatti a maggio avevamo un meno 7,5% medio. Ecco, ma perché questo? Le persone sono in crisi, c'è un po' di crisi e quindi evitano di comprare nuove vestiti, oppure perché invece c'è un freno all'export, le sanzioni alla Russia per dire, no? Oppure la paura del Brexit che si riflette anche sugli acquisti? Guardi, sono tutte cause esogene, sicuramente ognuna ha un'importanza nella decisione di acquisto degli italiani. Sicuramente gli acquisti non sono più di abbigliamento e di calzature e tutto ciò che riguarda la moda non è considerato un bene necessario, e quindi l'acquisto si ritarda nel tempo. In pratica io, guardi, la prima cosa che direi è la mancanza di reddito disponibile, sicuramente crea delle difficoltà nel fare un acquisto non indispensabile. E poi anche il clima di fiducia, non ultimo appunto l'apprensione per le vicende geopolitiche e le questioni anche che, appunto, come ha ben detto, minor flusso straniero, come ad esempio come ci riferivano i dati di Global Blue, sono dimezzati gli acquisti da parte degli stranieri russi nell'ultimo anno, e hanno avuto un calo anche gli acquisti dei cinesi, che avevano praticamente compensato in un primo momento questo calo dei russi. Ecco, Pier Maurizio Di Rienzo del Codacons, che cosa contestate? Cioè, il consumatore è povero e sfiduciato, dite voi, vuole proposte d'affari per rilanciare i consumi. C'è una critica che voi fate, i saldi non sono quelli che effettivamente si vedono. Buongiorno, ma io non sono del Codacons, quindi non è la mia posizione. Io del Codacons. Scusi, Marco Donzelli, presidente del Codacons, mi scusi. Prego, ma guardi, a sentire l'intervento che mi precede, non quello che erroneamente è intervenuto, ma rappresentante, non so... Di Federmoda, sì. Sì. E ci lascia un pochino perplessi, perché il rappresentante, parlando dei saldi delle vendite e delle transazioni sulle carte, ci riferisce una realtà un pochino contraddittoria. E quale sarebbe questa realtà? La realtà contraddittoria va un pochino esaminata, perché se noi consentiamo a chiunque di intervenire alla radio e di dire nel giro di 5 minuti o di 3 minuti tutto il contrario di tutto, creiamo una confusione nei coloro che ascoltano, che è veramente incredibile. Si parla di transazioni sulle carte di credito nettamente diminuite, e poi si parla di uno 0,1 in meno di vendite nei saldi. Ora c'è qualcosa che non va. Si vuole nascondere forse il fatto che nel commercio le cose vadano male, si vuole dare una... Beh, non l'ha nascosto, ha detto meno 1,3%, ma Massimo Torto. Ma come si fa a dire meno 1% di saldi e meno 7% di transazione sulle carte di credito? Cosa vuol dire? Non vuol dire niente. Vuol dire invece che l'Istat dice meno 20% di saldi. Ora, non è che si può dire proprio tutto, è il contrario di tutto. Qui ci sono dei dati che vengono riportati, che sono meno il 20%, da istituti tecnici sull'argomento. Non penso che si voglia dare un'impressione diversa. Quindi lei dice stanno tenendo il dato più alto possibile, ecco, questo è il problema. C'è qualcosa che non va. Adesso poi lo richiediamo a Massimo Torti. Ma lei... Richiediamolo, perché sì, sì, sì. Alla gente con una mancanza di adesso... di ragionamenti e di dati accogliamo... è veramente grave. Perché si insinua nella realtà di tutti i giorni una confusione mentale di dati, di circostanze. Va bene, ma a parte questa confusione mentale, lei ha criticato nel vostro comunicato Codacons, voi dite che praticamente i saldi, la percentuale di sconto non è quella reale, giusto? Guardi, allora, vengono dati dei dati intorno al 20%. Secondo noi non sono del 20% le riduzioni dei saldi quest'anno rispetto, come si diceva, c'è un calo sensibile negli ultimi due anni. Noi riteniamo che siamo nell'ordine del 35%, ma un interpellato, e ribadisco, un rappresentante del commercio, ci dice che nemmeno sono del 20% le riduzioni dei saldi degli ultimi due anni, cosa di cui hanno parlato tutti i giornali, ma dell'1%. E poi ci dice che le carte di credito. Allora, qui il mondo dell'economia e di chi rappresenta il commercio ci dice delle cose. Noi vediamo che i consumatori non hanno fiducia. Non hanno fiducia. Se hanno qualche soldo a disposizione, se lo tengono, come dicono gli istituti, lo risparmiano. Lo risparmiano, se lo tengono per sé. Qual è il processo volitivo attraverso il quale il consumatore decide di comprare? È un processo volitivo, un processo di ragionamento legato alla empatia che ha in quel momento con l'acquisto. Non ci sono affari, non c'è fiducia nel consumatore, non c'è un sistema dei saldi innovativo, perché i saldi in un ristretto periodo sono una cosa risibile, i saldi devono essere tutto l'anno. Devono essere l'angolo. E infatti deve essere un sistema che consenta alle persone di spendere consapevolmente facendo affari. Il consumatore non ha la percezione, anche in un momento di grave crisi come quello che registriamo sui consumi, di fare affari. Ok, la fermo. La fermo, Donzelli, perché voglio appunto Pier Maurizio Di Rienzo di Bellux di Piazza San Fedele a Milano, che vende accessori e borse. Come sono andati veramente questi saldi? Perché i nostri radioascoltatori, addirittura Paolo dice, uno dei due racconta balle, non ho capito chi, basta con questi finti saldi, dice Damiano da Roma, e commercianti furbastri. Ecco, le rigiro la domanda, come sono andati i saldi? E poi quello che giustamente dice Donzelli, non sarebbe ora di evitare queste sei settimane o solo queste sei settimane di saldo, ma magari fare, non so, l'angolo delle occasioni e fare degli sconti magari tutto l'anno? Intanto buongiorno anche agli ascoltatori, ma io dal punto di vista personale, nel senso della mia azienda, del mio negozio appunto nel centro storico di Milano, ho avuto una tendenza dei saldi in linea con quello che diceva Massimo Torti, cioè nel senso che sono nell'ordine di un calo dell'1-2% rispetto al confronto con lo stesso identico periodo dell'anno scorso. Va anche detto che io ho un punto d'osservazione, diciamo, un po' più, tra virgolette, drogato rispetto privilegiato. Esatto, perché comunque ricordiamoci che il mese di luglio dell'anno scorso fu il primo mese di boom anche da un punto di vista dell'indotto dovuto a Expo 2015 qui a Milano, nel senso che comunque la presenza turistica e gli effetti positivi di Expo sul commercio nel centro di Milano e in generale nella città si sono sentiti, e io personalmente li ho potuti registrare e apprezzare, quindi questo va sicuramente detto. Per quanto riguarda la provocazione, che non è neanche una provocazione di Donzelli, che è, diciamo, una richiesta che ormai sento da tanti anni, quella di liberalizzare, di fare in modo che i saldi, gli sconti, le occasioni ci possano essere durante tutto l'anno. Beh, io mi permetto di dire, è vero che c'è una regolamentazione dei saldi nel periodo invernale e in quello estivo, ma è anche vero che ormai quello che chiede il Codacons è nei fatti, nel senso che sono tantissimi ormai i negozi, i commercianti che con meccanismi di fidelizzazione della clientela piuttosto che con estemporanee iniziative promuovono degli sconti anche importanti durante periodi che sono al di fuori di quelli regolamentati dalle leggi regionali sui saldi. Faccio un esempio, ma non è assolutamente una critica. Io ho un negozio che sta a 300 metri dal più grande centro commerciale, diciamo department store italiano, e parlo del gruppo della Rinascente Duomo, che credo che sia nelle classifiche anche mondiali ai primi posti per quello che riguarda incassi dovuti soprattutto anche alla clientela turistica. Bene, la Rinascente con meccanismi di fidelizzazione applica i saldi il 26 di dicembre, cioè il giorno di Santo Stefano, ben prima di quello che può essere l'inizio invece di quello che sono le regole a cui ci si attiene come commercio tradizionale. Quindi quello che voglio dire, il commercio di vicinato è chiaro che risente di altre logiche, per cui una cosa che possa andare bene per tutti, è sempre difficile trovare una mediazione tra chi vive nei centri storici, chi vive nelle periferie e chi vive magari anche nelle città molto più piccole, nei paesi. Però Detto questo, mi sento di dire che davvero meccanismi di fidelizzazione della clientela consentono già da diverso tempo di applicare degli sconti, delle occasioni e delle vere e proprie promozioni nei confronti della clientela, che può acquistare a dei prezzi comunque convenienti anche in altri periodi fuori dai saldi. Ecco, Massimo Torti, ritorniamo a lei, Confcommercio. Ha sentito la critica di Donzelli, presidente del Codacons, ha detto in pratica in realtà queste percentuali sono imprecise, la crisi è un pochino più profonda, è così? Ma guardi, sulla crisi non c'è dubbio, cioè nel senso, e l'ho detto, il problema è che se contribuisce a far confusione non capisco il perché, perché io ho parlato di un meno 1,3% che è la chiusura delle nostre casse, quindi praticamente è un monitoraggio che facciamo con i nostri negozi, e quindi loro ci dicono dal centro alla periferia, i più grossi, i più piccoli, eccetera, eccetera, ci danno questi dati, un meno 1,3% a luglio rispetto allo stesso periodo, quindi luglio del 2015. I dati delle carte di credito sono di maggio, e quindi io ho detto che questo è importante sapere, che a maggio, quando si doveva vendere in stagione, in realtà c'è stato un tracollo dei consumi, e allora lì mi trovo perfettamente d'accordo. E per quanto riguarda l'Istat, non può essere che l'Istat faccia uscire un dato a luglio su luglio, cioè sullo stesso mese, perché non può averlo ancora, e lo possiamo avere noi perché sono i nostri negozi che ci danno un dato. Se mi parlo un meno 20% dei saldi in generale, cioè dal 2009 in avanti, io dico, sono d'accordissimo, ma questa percentuale sarà ancora più alta, tant'è che noi abbiamo ottenuto dall'Agenzia delle Entrate un correttivo congiunturale per la crisi proprio nel nostro settore, nello studio di settore VM05 UTAC, tessile, abbigliamento, calzature, proprio perché è una crisi che perdura da ormai parecchi anni, è una crisi che non si affronta così solo per dire liberalizziamo tutto dando la palla alle grandi strutture organizzate, invece bisogna tener conto anche di quello che è il tessuto imprenditoriale che c'è nelle nostre città, perché se non si guarda con attenzione a quello che è la politica del prezzo, che ovviamente non la facciamo noi commercianti, ma la politica commerciale del prezzo la fa chi ci fornisce la merce, quindi noi forniamo dei beni che non possiamo vendere a sottocosto, perché la legge ce lo impedisce, ma meno male, perché altrimenti non vedremo più neanche un negozio nei nostri centri urbani. Ed è per questo che io rispondo al Codacons: se veramente ha interesse a mantenere alto il livello di attenzione dei consumatori, noi diciamo comprate nei centri, nei negozi sotto casa, perché comprare nei negozi sotto casa vuol dire avere più vivibilità dei centri, più sicurezza e comunque mantenere un tessuto che non è solo commerciale ma anche relazionale, e quindi rispondo così al Codacons: guardiamo prima di tutto bene i dati, i nostri dati sono i nostri, cioè quelli che ci passano i commercianti, sicuramente è un periodo di crisi che appunto si evidenzia più in termini generali durante la stagione, quindi la primavera, estate, quando noi potevamo vendere a prezzo pieno, e come ha giustamente detto il commerciante di prima, il titolare di Pellux di Rienzo, dice appunto che le politiche del prezzo a seconda possono essere fatte anche in maniera diversa, io le rispondo, noi abbiamo 10 mesi all'anno di possibilità di fare sconti, questo ce lo prevede la legge, una legge che è pressappoché applicata in tutte le regioni d'Italia, quindi ogni regione italiana prevede 10 mesi all'anno di scontistiche, poi ovviamente sta al commerciante farle o meno, ma ricordiamoci sempre che siamo in Italia, abbiamo un pluralismo distributivo, quindi ci sono dei negozi che ogni mese all'anno vendono prodotti a 1 euro, 10 euro, 50 euro, e ci sono altri negozi che ogni mese all'anno vendono prodotti a 100 euro, 150 euro, 200, 300, 1000, eccetera, eccetera. Quindi questo è il nostro valore, la ricchezza che rende il nostro tessuto commerciale made in Italy veramente e attrattivo per tutto il mondo, tant'è che vengono numerosissimi milioni di visitatori a comprare, a fare acquisti, a vivere l'esperienza emozionale di un acquisto fatto nei negozi italiani. Marco Donzelli, presidente Codacons, è soddisfatto di queste risposte e soprattutto lei ha detto ci devono essere dei meccanismi diversi, ma l'outlet per esempio non ha aiutato chi vuole spendere di meno e che quindi magari va a prendere qualcosa dell'anno prima però sempre di marca, quindi, con un mercato diverso? Allora, facciamo un passo indietro. Abbiamo iniziato questa bella chiacchierata sostenendo che l'Istat, o meglio, abbiamo evidenziato che l'Istat dichiara che c'è un meno 20% sui saldi negli ultimi due anni. Però poi Massimo Torto ha sentito l'intervento del rappresentante dei commercianti che ci dice 0-1. Poi ci dice che le transazioni, successivamente specifica, ma non in periodo di saldi, a maggio sono meno 7%. Poi sentiamo il commerciante che ci favoleggia ancora anche lì sullo 0-1 del tessuto commerciale, che quindi... Qual è la sua opinione? Italia, insomma, rendiamoci conto prima di tutto che una discussione doveva essere impostata sul dato Istat meno 20%. Vabbè, ma questo non è importante. Sottolineato che nell'ambito di una riflessione del meno 20%, qui non si è sentito dire nulla dal rappresentante del commercio e nessuno e niente da parte. Ma lei, per lei che cosa bisognerebbe fare? Un commerciante che dice: io sto nel centro di Milano e quindi i problemi di riduzione che dice l'Istat. Ecco, la realtà in Italia è grave, perché l'Italia vive una situazione, a prescindere da quello che dice il ricco commerciante e il rappresentante dei commercianti che dice è andato tutto bene, però in effetti è vero, l'Istat dice meno 20%, sì, però noi guardiamo solamente i dati che ci arrivano. Ecco, qui un discorso che sia utile all'Italia, al sistema, e che faccia comprendere agli ascoltatori cosa succede in Italia non c'è stato, se non fosse intervenuta una povera associazione come quella del Codacon a sottolineare i dati che dice l'Istat e a stigmatizzare le dichiarazioni in una trasmissione radiofonica completamente diverse da quelli che... Ecco, Donzelli, quello che voglio capire è qual è la sua ricetta. Etica, mi scusi, dobbiamo recuperare un'etica e una cognizione delle cose che sia il vero. In Italia le cose vanno male, i consumatori non spendono un tubo, le persone, se hanno qualche soldo da parte, se riescono, quei pochi che riescono, li mettono da parte perché hanno una paura bestiale. Il commercio in Italia, i consumi in Italia non si rilanciano se si continuano a dire cose che sono addirittura in contrasto con quello che dice l'Istat. Ora, questo abbiamo detto, abbiamo sentito Torti che la pensa diversamente. Fa rappresentare l'Italia per quello che è. Sì, non mi ha dato la ricetta, però. Vecchio, un sistema del commercio che non consente al consumatore di fare affari, perché il consumatore ha paura e non ha la percezione di fare affari. Ecco, questo è quello che ha detto quindi Donzelli. Torti, a lei la chiusura in un minuto, perché siamo proprio al limite. Bisogna far fare affari ai consumatori. Guardi, sicuramente in questo periodo ci sono tante possibilità, perché la profondità di assortimento è ricca, di taglie, colori, eccetera, eccetera. Quindi la qualità anche dei nostri negozi si sta evolvendo, quindi stanno portando anche, cercando di attrarre visitatori anche con le vetrine, dando più visibilità al prodotto attraverso una riqualificazione dei negozi. Certo che investire in questo momento è davvero difficile, quindi quello che serve è lì, è l'unica cosa per cui sono d'accordo. Poi mi piacerebbe vedere i dati Istat del meno 20% dell'ultimo anno, però l'unica cosa per cui sono d'accordo con i consumatori è che serve più denaro nelle tasche dei consumatori, e ovviamente con più denaro e quindi con più reddito disponibile arriva anche un pochettino più di fiducia, ecco, che su questo è sicuro. L'altra possibilità è che si attragga anche il visitatore straniero, quindi visto che noi come Italia, sistema Italia, abbiamo un turismo qualificato e di grandissimo livello, attrarre, fare politico di attrattività per il nostro paese sicuramente potrà influire bene anche sulle vendite e ovviamente dall'altra parte sugli acquisti da parte degli stranieri. Linea alla regia. Ma cos'è quest'estate? E noi continuiamo a parlare poco di saldi perché c'è un radioascoltatore in linea e volevamo chiedergli qual è la sua esperienza, da dove chiama e come si chiama. Allora, mi chiamo Daniela e sono di Milano. E qual è la sua esperienza? Allora, la mia esperienza, parlo da utente, quindi io non so parlare di percentuali, di scuole, certo, eccetera. Però mi trovavo molto d'accordo con il signore, l'intervento precedente del signore della Pellux, perché io stessa, e come me la mia famiglia, oramai, intanto è vero che ci sono saldi continuamente, sotto varie forme, quindi 20% di sconto, ti fanno la tessera il giorno del tuo compleanno, tutto quello che vuoi. Poi la gente non è scema, quindi può darsi che siano diminuiti le vendite in alcune catene, in alcuni negozi, però il signore della Pellux diceva, parlava della Rinascente, cioè i negozi di qualità. Io stessa prendo le cose in saldo anche al 50%, magari sono capi anche costosi, però chi più spende meno spende, ne prendi uno e non ne prendi cinque. Quindi secondo me è cambiata anche l'acquisto, la modalità dell'acquisto. Cioè si spende numero uno, si spende, si trova comunque, non so, io ho bisogno delle Hogan, non compro più cinque paio di scarpe. Ma ne prende una, ho capito. Al 40%. E quindi secondo me è cambiato molto, e là dove c'è la qualità c'è la vendita. Passiamo allora, non più ai prezzi di un tempo, ecco, e questa, e io sono un'insegnante, non sono una dalle grandi entrate. Certo, ho capito la sua esperienza, la ringrazio, e sentiamo invece un altro radioascoltatore, come si chiama e da dove chiama. Pronto, mi sente? Pronto? Sì, pronto. Gianni, abbiamo in linea Gianni. Sono io, Elisabetta, buona giornata. Buona giornata, qual è la sua esperienza con i saldi? L'esperienza mia è che io sono un commerciante. Ah, ecco. E di conseguenza io sono abbastanza stufo, cioè ho 73 anni, di sentir sempre dire che noi facciamo i furbi. Guarda, Elisabetta, è una cosa impressionante. Siamo piccoli negozi, vendiamo la roba anche al 70%. Pronto? La gente si lamenta. Non si lamenta nessuno. Ah. Sono i giornalisti e gli altri. Ah, è colpa nostra. Vabbè. No, scusi, quando si parla di commercianti, sempre, non lei in particolare, tutti, che continuano a dire sempre che siamo furbi, quando invece vanno agli outlet 70 più 30 più 50 e non si meravigliano mai come fa questa gente a vendere questa roba. Capisce? Non si può fare una concorrenza così sleale. C'è una ditta di divani che vende tutti i sabati, finisce e invece continua. Io quando devo fare, scusi l'ultima cosa, quando devo fare io una vendita speciale, devo fare una lettera al sindaco dove devo dire come mai svendo sta roba, perché la svendo a parte i saldi, perché la lista dei prodotti, ma dove siamo? Loro possono fare quello che vogliono, io sono qui a fare i bischero, si dice a Firenze. La ringrazio, Amazon e eBay, di voi non resterà più nulla, un radioascoltatore addirittura fa questa previsione catastrofica. Sei incredibilmente forte e veloce, la tua pelle è pallida e fredda come il ghiaccio, i tuoi occhi cambiano colore e a volte parli come se provenissi da un'altra epoca. Non mangi né bevi niente, non esci alla luce del sole. Quanti anni hai? 17. Da quanto tempo hai 17 anni? Da un po'. Io so cosa sei. Dillo. Un vampiro. E noi in questa ultima parte ci vogliamo invece occupare di un tema che dilaga tra i giovani, ovvero la moda dei vampiri e dei lupi mannari. Insomma, i giovani lettori vogliono l'horror. Ne parliamo con Glinda, il nome d'arte Glinda, che è una blogger di Fazzi Editore. Fazzi Editore è l'editore che in Italia ha portato Twilight, ma che sta portando anche una nuova saga che non ha più i vampiri ma i lupi mannari. E vogliamo chiedere a Glinda, questo nome un po' particolare, che cosa fai nel tuo blog e perché dilaga questa moda tra i giovani. Ciao, buongiorno. Innanzitutto vorrei dire che non sono la blogger di Fazzi Editore, collaboro con Fazzi Editore, ma sono la blogger di Atelier dei Libri, su cui appunto recensisco libri del genere, diciamo, di cui stiamo parlando proprio questa mattina, young adult, che siano insomma urban fantasy e non. E, nulla, beh, io credo che la moda dilaghi perché non c'è nessun motivo per cui non debba dilagare. Dopo Twilight si è aperto un mondo dell'horror, un mondo dell'oltretomba. No, io mi ricordo quando ero ragazza, cercavo di leggere il più possibile e leggevo Jane Austen, ecco, queste erano le mie letture. Adesso mia nipote, per esempio, legge, vuole tutte queste storie di vampiri, ecco, come è il plot? Perché questo è interessante, perché attira così tanto questo oltretomba? Guarda, probabilmente dirò qualcosa che scandalizzerà tanti lettori, ma lo schema è piuttosto simile, insomma, cioè alla base c'è sempre la grande storia d'amore che comunque si allega il lettore alla storia. Ovviamente le tematiche sono altre, la tematica è quella del mostro che deve essere in qualche modo salvato, spesso magari come può essere in Twilight un mostro che lo è suo malgrado, che non vorrebbe effettivamente riabbracciare la sua umanità. Oggi più che mai questo genere di schemi si è un po' ribaltato, infatti nei libri che vanno tanto di moda adesso troviamo dei bad boy piuttosto che appunto delle creature soprannaturali che abbracciano la propria natura nonostante i propri sentimenti verso la singola umana che riuscirà a redimerli, ecco, mettiamola così. Quindi Luke è sempre questo, la grande storia d'amore, la grande storia d'amore tra un umano e un lupo mannaro o un vampiro. E generalmente sì. L'umano è la donna e il vampiro è uomo, come sono distribuiti i ruoli? Sì. I ruoli sono più o meno questi, anche se ultimamente sempre di più c'è una contaminazione anche dalla parte femminile. Infatti, per esempio, possiamo trovare magari nella saga Bitten, che è appunto pubblicata da Fazio Editore, una donna che invece è un mostro. Una vampira. Però sempre un po' vittima, sì, una licantropa. Una licantropa. Vittima dell'amore, in fondo sempre. È stata morsa volontariamente dal proprio compagno, quindi lei non avrebbe voluto essere un mostro. La redenzione qui si cerca in altro modo, anche un po' di accettazione, però ecco. Gli schemi sì, sono più o meno quasi sempre questi. Ma i giovani leggono soprattutto queste storie? Perché oramai non leggono più i classici, questo l'abbiamo capito. In questa fascia d'età addirittura Salani darà, ci sarà il vampiro per i bambini, quindi stiamo ancora parlando di una fascia ancora più giovanile. I giovani nell'80% divorano questo tipo di libri, oppure nella tua esperienza come blogger hai anche nella stessa fascia d'età giovani che leggono i vampiri, ma leggono anche appunto, non vorrei dire Genossi, ma Moby Dick per esempio, Melville, questi grandi capolavori, no? Ma ci mancherebbe, i giovani leggono tutto. Proprio ieri sera ho ricevuto una lettera da parte di una lettrice che era indignata per quanto la moda fosse contro i propri gusti letterari, cioè insomma in questo momento sicuramente non sono gli urban fantasy a dominare la scena quanto i contemporary romance, come può essere magari un After, in cui comunque lo schema è lo stesso, c'è un bad boy da redimere con l'amore e tutto il resto. Però non è horror. I leggono tutto. No, non è horror. Non è horror. After non è horror, è vero. Allora, Manuela Ma è un po' horror, lo è. Anche After un po' horror. Manuela Trinci, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questi ragazzi che leggono questi romanzi, anche horror, un po' romantici, non rischiano poi di essere deviati nella loro quotidianità? Buongiorno intanto a tutti e grazie. Ma io non penso questo, no? Penso piuttosto che in fondo gli horror, eccetera, e condivido quello che ha detto la blogger prima, no? Queste storie, questo gioco a redimere, io ti salverò di Hitchcock, insomma, per capirsi, che continua a essere serpeggiante un po' in tutti noi, soprattutto in chi fa il mio lavoro, diciamo. Ma io penso che davvero lo schema possa essere anche letto come quando si pensa alle fiabe classiche, a quelle che fanno paura, no? Dove c'è questo senso perturbante anche della mostruosità, eccetera. Credo che questo serva, tutto sommato, per viversi intensamente anche un certo tipo di sentimenti, viverli sulla carta, viverli sullo schermo, per poi vincerli in qualche maniera, no? È un po' una sfida, diciamo, a tutto quello che è perturbante, a tutto quello che non è controllabile, che è un po' tipico anche della fascia, sia dei between, quindi va benissimo la nuova collana Salani, mi torna, cioè between, i ragazzini che vanno dai 9 fino alla soglia dell'adolescenza, per poi prendere pienamente la fascia degli young adult come lettori. Quindi penso che sotto ci sia questo qui, cioè il senso quasi, come si può dire, di vertigine che viene nel pensare, nel vedere, nel leggere certe cose, simile a quello che succede nelle montagne russe, no? Quando si va nelle giostre, c'è questo piacere, proprio questo gusto rispetto a sperimentare qualcosa di forte. Ecco, la letteratura in fondo è una bella area transizionale, consente, come pure il cinema, come il teatro, consente di vedere rappresentate, di vivere in una maniera indiretta emozioni forti. Ma c'è un mostro. C'è il fatto di essere identificarsi magari con il vampiro, perché si è in un'età adolescenziale dove ci si sente un po' vampiri o lupi mannari? Sì, certo, c'è il gusto anche, guardi, davvero, come dice lei, della trasgressione nei ragazzini di quest'età, no? Quindi diciamo che la fascia, anche se vogliamo dire, delle paure tipiche di quest'età, e quindi il bisogno di vincere le paure di questa fascia d'età, sono da una parte centrate su di sé, quindi centrate sull'ambiente, su di sé, ma una parte forte delle paure, delle ansie dei ragazzini di questa fascia d'età è legata proprio al sociale, quindi al confronto con gli altri, la paura dell'ineguatezza, la paura degli avvenimenti che sfuggono al controllo personale, quindi diciamo non casualmente viene chiamata l'età dell'incertezza. Allora, questo mondo un po' sotterraneo, questo mondo perturbante, avrebbe detto Freud, in fondo da sempre attrae l'umanità e da sempre, no, consente la possibilità di sferrare sfide anche agli adulti. Quindi credo che i giovani ci si impegnino molto in questo. Tanto è finto, facciamoci pure spaventare. Suscitiamo in noi, ecco, ma c'è questa distinzione poi, oppure non si rischia alle volte in alcuni ragazzi problematici che ci possa essere una confusione tra fantasia e realtà? Ma guardi, sì, questo voglio dire, la cronaca certe volte lo dice, no? Però secondo me bisogna anche avere i piedi per terra, cioè questi ragazzini qui avrebbero gli stessi problemi leggendo un'altra cosa, cioè io non demonizzerei. Sì, anche leggendo Oliver Twist, per dire. Brava, ha capito perfettamente, in fondo anche Orgoglio e Pregiudizio può avere, no, le sue identificazioni, o leggere Emily Dickinson. Io per esempio sono stata una lettrice feroce nell'adolescenza di Emily Dickinson, e certo non è un bel modello, no? Da un certo punto di vista. Emily Dickinson, lo ricordiamo, era una poetessa che ha vissuto in una stanza quasi tutta la sua vita. Esatto, Glinda, esatto. Che cosa fa questa lupa mannara di strano? Che cosa succede? Perché sta per uscire il quarto volume per Fazzi, no? No, allora sì, questa, quella per cui sta per uscire il quarto volume, è la serie Le stelle di Nosed, che è in realtà una grandissima storia d'amore tra un licantropo e un'umana, una storia tutta europea. E più che cosa fa, nei quattro libri si esplora la mitologia che Sophie Domain, che l'attrice, ha creato, ma soprattutto la storia d'amore che lega Leith e Anna, che sono i due protagonisti. Lui è un lupo mannaro, lei è un'umana trascinata in un mondo surreale insomma, se la dovrà vedere con creature che sono anche ben peggiori dei semplici lupi mannari, ma tanta mitologia, tanta voglia di essere migliori del mostro che in realtà si appare, tanto amore, tanta redenzione, insomma, e tanta suspense, ma in realtà, ecco, vorrei sottolineare, questi libri hanno ben poco di spaventoso, in effetti sono più che altro dei romanzi sentimentali in cui anziché l'antieroe romantico c'è l'antieroe romantico magari dotato di zanne oppure artigli, niente di preoccupante, anche le mamme a casa possono stare tranquillamente comprare Twilight piuttosto che Vertigine o gli altri contemporanei romanzi. Gli altri contemporanei. Grazie. Sì. Linea alla viabilità. Ma cos'è quest'estate? sentiamo la sigla di The Walking Dead e ne parliamo con Gigi De Palo, presidente nazionale forum delle associazioni familiari, mondo cattolico, quindi presidente delle associazioni familiari favorevoli a The Walking Dead, favorevole anche a questi romanzi per adolescenti. Abbiamo sentito anche Glinda, la blogger, un po' horror, un po' romantici. Perché? Gigi Vale. Buongiorno a tutti. Ma più che favorevole, io sono favorevole alle cose fatte bene, alle cose scritte bene, alle serie televisive belle. Non sono uno dei fautori del Don Matteo, perché comunque si parla di un sacerdote e comunque no, vengono tenute in alto alcuni approcci valoriali. Io credo che se una serie è fatta bene, i giovani, e non solo i giovani, la guardano. Se è fatta male, i giovani o i meno giovani non la guardano. The Walking Dead è una di queste serie che, partendo appunto da situazioni anche splatter, che parlano di zombie, situazioni anche angoscianti in molte situazioni, pongono dei temi importanti, dei temi che hanno a che fare con l'uomo, che sono di occasione di riflessione per tutti. E quindi io sono favorevole, nel senso che le guardo e, compatibilmente con l'età dei miei figli, le guardo anche con loro. Quindi lei le guarda, poi va a letto, li guarda, va a letto, dorme tranquillo, non ha incubi notturni, perché per esempio io se dovessi guardare The Walking Dead non dormirei. Ma guardi, in The Walking Dead, senza fare spoiler, gli zombie sono un contorno, le vere dinamiche sono quelli dei vari gruppi intorno a Rick Grimes, intorno al governatore, alle persone che sopravvivono a questa situazione, a questa malattia. Gli zombie fanno un po' da contorno, ma non sono loro gli uomini che camminano. I veri uomini che camminano sono i superstiti. Poi nel resto ci sono gli zombie. È chiaro che c'è sangue, ci sono teste spiattellate, ma questo fa parte appunto di una narrazione, fa parte, diciamo, è un contorno. Il vero tema sono le dinamiche umane, sono la dignità della persona umana dopo la morte, sono il mettere al mondo un figlio in una situazione post-apocalittica, è il dono di sé in una situazione nella quale vige l'homo homini lupus. Allora, su queste cose, a mio vedere, c'è molto da dire e c'è molto da utilizzare anche in chiave educativa. Poi muore uno zombie, gli spaccano la testa, esce il sangue, esce un po' dell'intestino, quello fa parte, diciamo, del colorito, degli effetti speciali. No, diciamo che poi queste serie televisive e questa nuova moda è una moda molto antica, perché viene poi da quello che è la letteratura americana. Edgar Allan Poe è stato poi l'antesignano di tutto questo, o anche Mary Shelley con Frankenstein. Allora, Manuela Trinci, abbiamo sentito che addirittura Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, dice c'è un messaggio positivo in tutto questo horror. Lei condivide? Guardi, tra l'altro proprio c'è un saggio bellissimo di un autore statunitense, perché è un po' lì la chiave, che si chiama Noel Carroll, che lui ha scritto, è un filosofo, che ha scritto un libro bellissimo, The Philosophy of Horror, e dove lui presenta proprio tutte queste tematiche, un po' come diceva il presidente prima. Proprio lui dice che nel mostro, nello zombie, nel... c'è questo essere interstiziale, dice proprio, dove c'è un po' il vivo, un po' il morto, un po' il dentro, un po' il fuori, un po' l'io, un po' il tu. Ecco, lui dice, non è il sangue, non è quindi la violenza in sé che attrae i giovani in tutto questo, non è questo, diciamo, il punto forte, ma piuttosto nella propria capacità che il giovane trova in sé di assorbire l'orrore, di dominare l'ansia. Cioè è un po' una capacità che i giovani hanno di mettersi alla prova attraverso anche queste rappresentazioni, quindi di riflettere anche nelle condizioni migliori, ovviamente, no? Quindi non si può mica generalizzare mai le cose, però anche una possibilità di riflettere, per esempio, su quello che è il morire, la morte, l'aldilà, quello che diceva prima, mi trovo, ecco, concorde, e queste ipotesi sia di questo filosofo, ma sia anche di uno psicologo americano, sempre studiosissimi di questi argomenti, come David Bass, e anche lui focalizza più gli aspetti legati alla crescita. Questo noi dobbiamo un pochino pensare quando pensiamo ai giovani, quando pensiamo alle cose che vengono proposte a loro, vederne gli aspetti positivi, vederne gli aspetti di crescita, senza ovviamente eludere o pensare anche che possano esserci influenze negative, però ripeto, queste non sono strettamente legate o solo legate a uno spettacolo televisivo, sarebbe troppo facile. Gigi De Palo, in un minuto, perché poi passiamo a un altro argomento, lei pensa che queste serie televisive, questi romanzi poi mettano un po' i giovani in condizione di pensare anche all'aldilà, che cosa c'è dopo la vita? Ma alcune sicuramente sì, è chiaro che tutto quello che io sto dicendo ha un senso se vissuto all'interno anche insieme a una famiglia, nel senso che io non lascerei mai i miei figli a guardare The Walking Dead da soli senza offrire delle chiavi di lettura. Credo che è importante il ruolo che svolge la famiglia in questo senso, cioè tutto può educare, basta che lo si utilizza nel miglior modo possibile. I media siamo noi, è l'utilizzo che noi ne facciamo, non si può far girare i nostri figli, diciamo, bendati in casa o non farli parlare con i loro colleghi studenti di alcuni temi. Bene che da queste occasioni che emergono si possano trarre delle occasioni appunto educative che hanno a che fare con i grandi temi della vita, ma l'importante, lo ripeto, è che siano fatte bene, cioè queste cose funzionano se sono belle, i giovani hanno bisogno di bellezza e se un racconto viene fatto bene, se viene raccontato bene, allora questo ha successo per questo motivo, non è lo zombie piuttosto che un'altra cosa, è il fatto bene, perché alcune serie di zombie fatte male infatti non hanno successo. Non hanno successo. Io ringrazio i miei ospiti perché apro quello che potrebbe essere un po' un leitmotiv di questa trasmissione estiva, proprio sui temi estivi. Noi siamo stati incuriositi da un libro che scritto da Gianmaria Aliberti Gerbotto, che si dice Basta partire. Lui, lei, una valigia, si fa presto a dire partiamo, ma attenzione, ci sono delle regole e qui il pubblico un pochino più adulto ci seguirà di più, per non tornare da soli, cioè la vacanza può essere un disastro, è questo che intende dire Gianmaria Aliberti Gerbotto? Assolutamente sì, perché la vacanza è un momento in cui si passa insieme molte più ore rispetto a quella che è la vita quotidiana normale, e quindi questo naturalmente porta a tirar fuori quelle che sono le vere differenze naturali tra uomo e donna, sia nella concezione del viaggio che in tutto il resto. Che cosa succede? Perché si litiga? Beh, si litiga per questi motivi, ci sono delle diversità che non verranno mai meno. Ti faccio un esempio stupido ma emblematico, pensiamo alle scarpe. Allora la donna che deve partire si porterà 3-4 paia di scarpe a condizione che il viaggio non duri più di 2 giorni. L'uomo partirà con quelle che ha addosso, quindi già da queste piccole cose si capisce l'enorme diversità. Quindi noi abbiamo 2 valigie di volumi differenti per un uomo e per una donna. Poi che cosa succede per esempio in spiaggia? La donna è sempre un po' intimorita per questa prova costume? La prova costume, io nella mia ricerca, ecco, ho trovato che sia l'unica cosa che nel 2016, cioè sempre di più, ci unisce, perché comunque adesso ci sono degli uomini che fanno molta attenzione anche alla dieta, proprio. Ecco, questo può un po' unirci prima del viaggio, rinsaldare un po' quello stato di unione, ecco. Poi appena che si arriva sul luogo di vacanza invece già si litiga. Pensiamo alla spiaggia, che cosa succede? Lei vorrà un posto più isolato, ma perché? Perché nel posto più isolato lei ha il terrore che l'ombrellone aperto del vicino le faccia ombra, lui invece vorrà un posto dove poter subito attaccare bottone con i vicini di ombrellone perché non gli passa più, ecco. Quindi la spiaggia pure è un'altra situazione. Andiamo per esempio a mangiare, e lì che cosa succede? Perché magari si sta in vacanza in un luogo esotico, ci sono cibi nuovi, come reagisce l'uomo, come reagisce la donna? Ma allora l'uomo non ammetterà mai, mai, mai che alla fine è contento. Se lei gli fa provare la radice di eucalipto, voglio dire che è un'esperienza nuova, la donna è affascinata e attratta da tutto questo che ci può essere di diverso nella cucina. L'uomo non lo dirà mai, ma alla fine comunque tornerà a casa anche lui arricchito da questa esperienza. Che cosa succede? Diciamo che l'uomo passa tutto il giorno a guardarsi lo smartphone aspettando l'ora di cena. La donna invece se la gode, si gode la giornata e cerca di vincere questa naturale pigrizia, questa voglia di oziare di lui. Se c'è qualsiasi cosa nei dintorni, per dire da una cattedrale sconosciuta piuttosto che un mercatino coperto, lei vorrà sempre andarla a visitare, l'uomo tenderà a stare lì stanziario dov'è. Perché un po' le donne sono più curiose, no? Soprattutto molto. In vacanza. Ecco, c'è poi una possibilità per esempio, in una coppia che parte da sola, di amicizia con un'altra coppia, oppure magari che si innescano delle gelosie perché si incontra una coppia, per esempio, dove la donna è molto bella, oppure no, c'è anche questa possibilità. Questo è un classico. Allora, diciamo che nella coppia un po' consumata, cioè voglio dire la coppia che sta insieme già da qualche anno, l'amicizia con i vicini può essere anche salvifica per quello che riguarda la vacanza. Ma poi che cosa succede? Che il passato l'entusiasmo iniziale, cioè quindi la voglia di chiacchierare, di raccontare, parte subito quella che è appunto quelle che sono le gelosie o per il lavoro o per l'aspetto fisico, comunque che cosa fanno gli altri rispetto a te, e quindi alla fine io direi che è meglio stare da soli, meglio soli in silenzio che mal accompagnati. Ricordiamo allora Basta Partire, un libro di Gianmaria Liberti Gerbotto, editore Imprimatur. Io ringrazio molta la mia redazione, Massimiliano Lollis, Silvi Boccaletti, Alessandro Longoni e anche Leonardo Patanè in regia, e vi do appuntamento domani mattina alle 8:15.